Come hai visto Pardo nella corsetta di prima? Com'è, in forma? È un po' appesantito, però ho visto bene, dai. Ma sto a dieta, ma... sta a dieta, vabbè. Sta a dieta. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Oh, ieri ha vinto l'inno del Siviglia, quella che era la vera finale di Europa League. Non Siviglia-Liverpool, ma tra due inni bellissimi. Battere You Never Walk Alone non era facile. Non era facile, però, no, sono, però se la giocano. No, se la giocano, bellissimo. Sono due degli inni più belli in assoluto. Bellissimo, meraviglioso. 8-0-0-24, parliamo del Siviglia, dell'Europa League, parliamo di Conte, del Milan, perché Berlusconi ha appena lasciato Milanello dopo aver incontrato la squadra. Poi vi diciamo anche che cosa ha detto, le cose vere, non quelle di ieri. Attenzione che non vi pago più se fate queste figure. 800240024, prenotatevi, 349-238-6666, sms e whatsapp. Sai, Pier, che c'è qualcosa di beffardo nel Siviglia che domina in Europa League. Ieri ha vinto e in rosa c'erano Andreoli, che è uno scarto, sì, dell'Inter, Llorente, che è stato lasciato partire dalla Juventus, per carità, ieri era in panchina, ma un uomo importante per il Siviglia. Poi c'era Adil Rami, me lo fate sentire? Siamo molto contenti perché era difficile con una squadra molto forte, e abbiamo giocato bene, abbiamo lottato, no? Hasta la fine abbiamo vinto. Sono molto felice perché è la mia prima Coppa Europa League, e non so cosa dire perché sono un pochetto emozionato. Poi qualcosa l'ha detto, perché ha detto: io ero al Milan l'anno scorso, ma il signor Inzaghi non mi faceva giocare mai. Sì, Adil Rami. Sì, ma Rami, sai, era un buon giocatore, ma questo in qualche modo racconta anche l'ambiente, cioè giocare nella difesa del Milan di questi tempi è complicato, è complesso anche per giocatori non da buttare via. Io mi ricordo che ho fatto arrabbiare tutti, hanno detto che Mexes secondo me non era un cattivo giocatore, ancora era capace, forse è ancora capace di qualche sprazzo. Alex in assoluto non è un cattivo giocatore, Romagnoli uno dei giovani più promettenti del nostro calcio, quindi insomma che ci siano, certo che non sia la difesa con Nesta e Stam di qualche anno fa o Maldini, Costa, Curta, questo è ovvio, però è anche vero che c'è una componente ambientale. A Siviglia le cose riescono meglio, al Milan riescono, sì, peggio. Ma è anche vero che se tu vinci l'Europa League, poi ne parliamo, ma cedendo tutti gli anni i pezzi migliori, e ripeto, in rosa, ma non con primari, Andreoli, Llorente e Adil Rami, non è che servono investimenti da decine di milioni di euro per essere competitivi, almeno in Europa League. Sì, ma poi anche altri giocatori, insomma, sono assolutamente normali, giocatori normali, ecco, che portati fuori dal Siviglia probabilmente non ripeterebbero questo tipo di risultati. Io credo però che il Siviglia sia soprattutto un esempio per come gioca in Europa League, sempre col coltello fra i denti, e per come considera l'Europa League una priorità assoluta. Come noi italiani, del resto. Guarda, che il Napoli non sia andato avanti in questa competizione mi fa una rabbia pazzesca. L'anno scorso, devo dire, abbiamo avuto una grande Europa League. Avremmo anche meritato di vincere. Avremmo perché, meritato perché il Napoli se meritava Napoli di andare non fosse in finale, stato buttato fuori dall'arbitro contro ritorno, il Dembélé. Sì. A proposito, anche ieri arbitraggio allucinante. Poi raccontiamo un retroscena. Vi racconto un retroscena sul signor Eriksson, che era l'arbitro. Non è Sven Goran Eriksson. No, non è quello. Non è Sven Goran Eriksson, era l'arbitro Mutu di Mane. Bayern Monaco Juventus. Esatto, partita, sì, che se vi ricorderete ha detto qualcosa per la moviola. Poi raccontiamo un retroscena. Oggi Berlusconi è stato a Milanello, ha detto: la vittoria darebbe un significato nuovo alla stagione, ai giocatori, ha detto, bisogna dare tutto quello che si ha dentro e anche di più, sarebbe un risultato troppo importante intanto per voi e anche per il Milan, per conquistare l'accesso diretto all'Europa, oltre a permetterci di conquistare il 29esimo trofeo in 30 anni. Adesso parte il conteggio e quel richiamo a impegnarsi. Mi fate sentire Brocchi ieri. Non accetto che una squadra che gioca con una maglia così importante possa regalare uno scenario come quello dell'altra sera. La squadra deve tirare fuori un orgoglio, deve tirare fuori una voglia diversa rispetto a quella che ha messo in campo contro la Roma, perché se pensiamo di andare ad affrontare una finale di Coppa Italia con lo spirito che abbiamo messo in campo con la Roma, è meglio lasciar perdere. Secondo te c'è qualche possibilità che qualcuno lo ascolti? Lui, non Brocchi. Oggi il Corriere dice che Brocchi voleva fare ritiro, sì, e la squadra si è rifiutata. Sì, sì, sì, l'ho letto. Corriandoli di sai, di quando, quando la situazione diventa così, così catastrofica, diventa facile. Ogni piccolo problema diventa una tragedia, ogni cosa si ingigantisce, ogni piccola pagliuzza diventa una balla di fieno che ti rotola addosso, diventa una valanga. Quindi questo è un momento così, dove qualsiasi cosa, qualsiasi voce, qualsiasi situazione diventa drammatica, perché i risultati nel calcio dettano legge, i risultati non sono all'altezza e i risultati così scadenti da parte di un club così glorioso fanno notizia inevitabilmente. Io però credo che in una stagione come questa, di un gruppo che si rifiuta di andare in ritiro, io credo bisognerebbe spazzare via tutto. No, ma tutto, certo, ma certo, tutto. Però la voce adesso deve essere confermata, insomma, dai, adesso non siamo sicuri al 100%? Bah. 99? 90? Bah. Diciamo alla Galliani, 99,9 periodico. Beh, questo allora è grave. È molto grave, sicuramente. 800 24 00 24, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. L'anticipo trovato da Lovren, ma ancora il Siviglia che insiste, a Banega, bene dentro per Vitolo e poi il 2-1. Koke. Breaking news. Aveva 86 anni Marco Pannella, ricoverato da ieri in gravissime condizioni, è morto, sarebbe morto, la notizia è di pochi istanti fa, lo riportano alcune testate online, tra cui il Corriere, a Sky anche in questo momento, quindi Marco Pannella è morto. Gli aggiornamenti su questa notizia, gli approfondimenti naturalmente nel giornale radio delle 15. Anticipo trovato da Lovren, ma ancora il Siviglia che insiste, a Banega, bene dentro per Vitolo e poi il 2-1. Koke. Gamero parte con Banega accanto, ecco Banega che riceve, può rientrare per il tiro a giro sul destro, poi invece prova ad appoggiarla, se la cava solo per un attimo il Liverpool. Koke. Il Siviglia vince l'Europa League 2016 battendo in finale il Liverpool per 3-1. È la terza vittoria consecutiva record. Sì, una partita molto difficile. Loro hanno iniziato segnando, non era niente facile, ma questa squadra voleva tanto vincere questo, no? Penso che alla fine chi l'ha voluto di più è chi la vince, no? Darle tanti auguri a tutti la squadra, che sono dei mostri, veramente felice perché mi mancava l'Europa lì, contento. Oh, la frase chiave, saluto Paolo Condò, ciao Paolo. Ciao Carlo, ciao. No, Giovanni. Che Carlo, oggi l'abbiamo messo a riposo. Ah, avete fatto bene. Lo scongeliamo per la Champions, lui è titolare e quindi... No, la... L'hanno giocata quest'anno la Champions? Non me l'accordo. Ciao Piero! Però nel dubbio parlane poco, Paolo, perché non si sa mai. No, volevo dire, la frase chiave è quella che abbiamo sentito, che ha detto anche Emery: perché vinciamo l'Europa League? Beh, prima di tutto perché noi ci teniamo molto, la desideriamo, insomma, siamo usciti dalla Champions e un minuto dopo eravamo lì a progettare quello che sarebbe stato questo finale di stagione. Ma sai, questo è un concetto che tante volte si fa un ragionamento, no? Il fatto di arrivare terzo nel girone di Champions e uscire dal torneo per entrare in Europa League Per quante squadre possono vincere la Champions League? Io non credo più di 5 o 6 in ogni edizione. E quindi a un certo punto, fra arrivare agli ottavi e poi uscire agli ottavi, oppure con grande determinazione, con grande freddezza, come il Siviglia, arrivare terzi e poi andare fino in fondo e vincere il torneo, è migliore questo naturalmente. Anche perché il malloppo l'hai già preso, il grosso del malloppo l'hai già preso. Ti vai a competere, comunque fai altri incassi e arrivi fino, se sei forte come il Siviglia, arrivi fino a maggio, vai a giocarti la Supercoppa Europea, che comunque è una bellissima partita contro la vincitrice della Champions. Insomma, il Siviglia mi sembra che abbia trovato un po' la pietra filosofale per introitare denaro e per tenere sempre il suo nome molto elevato nel ranking delle squadre europee. Sì, proprio per costruirsi un profilo internazionale, però, che non ha mai avuto fino a 10 anni fa. Però è una battaglia purtroppo persa. Io non mi rassegno ancora, insomma, io adesso, a parte le battute, la commentavo l'Europa League, adesso ovviamente la guardo, penso che sia una competizione che meriterebbe un altro, in Italia un altro in Italia, certo. Ribadisco, sono un disco rotto, l'ho detto 3 minuti fa, che il Napoli non sia andato avanti quest'anno in Europa League per me rimane il rimpianto della stagione del Napoli, perché il Napoli concordo. Secondo me non poteva vincere lo scudetto per come si sono messe le 38 partite, non, comunque la Juve ha dimostrato che era più pronta, sì, forse se il Napoli avesse vinto lo scontro diretto a Torino potevano cambiare le cose, ma insomma sinceramente, mentre in Europa League poteva andare avanti, poi magari poteva perdere la finale col Siviglia perché gli legavano due rigori, però il Napoli era una delle 4 squadre più forti col Dortmund, col Siviglia e col Liverpool. Ma poi c'è chi ricorda ovviamente la Juve dei 102 punti di Conte che ha buttato via in Europa League, avrebbe avuto anche la finale proprio contro il Siviglia in casa, però al di là di tutto c'è poi anche la capacità di interpretare il calcio europeo. Io non so cosa pensate voi di Emery, se è un allenatore da Champions, visto che qui giochiamo da Champions quest'anno. Io ti dico la verità, io sono rimasto molto deluso dal percorso in Champions League del Siviglia, che ho commentato in Supercoppa Europea, in una delle partite, forse la partita più bella dell'anno, Barcellona-Siviglia, che Paolo ricorderà. E poi invece mi aspettavo che a livello di Champions League ci sarebbe stato un passo avanti, che invece non c'è stato. Però evidentemente il Siviglia la Champions League non la vuole giocare, o meglio, la vuole giocare per arrivare terzo per poi andare in Europa League, che è il suo territorio naturale. Io mi aspettavo di più. Juve, ho commentato Juve-Siviglia, l'andata è stata una partita dove veramente mi hanno deluso, al di là dei meriti della Juve, che fra l'altro in quel momento era ancora una Juve abbastanza convalescente, quindi probabilmente un certo tipo di salto non c'è stato. Però nella borghesia, diciamo, sono i più bravi di tutti, non saranno nobili, ma fra i borghesi sono di gran lunga i più bravi di tutti, e ribadisco che l'Europa League può diventare un modello di sviluppo per club. L'ha fatto il Porto, l'ha fatto l'Atletico Madrid, lo sta facendo nella maniera più alta il Siviglia, e sono tutti club che sono cresciuti attraverso l'Europa League, cresciuti dal punto di vista dei risultati ma anche dal punto di vista economico, perché poi se vai a vendere i giocatori dopo che vinci l'Europa League, quantomeno dopo che la onori, li vendi al doppio di quella che era la votazione, sì, di prima. Oltre al fatto che da 2 anni ci vai poi in Champions grazie all'Europa League. Dimmi 2 cose su Emery, Paolo. Ma Emery è molto cresciuto, perché io l'avevo visto nel 2011 a Valencia e l'avevo giudicato abbastanza un asino, come molti allenatori spagnoli, soprattutto dell'epoca, poi sono cresciuti. Perché, per quale motivo? Aveva perso 6-3 in casa con il Real Madrid, ma era un 6-0 che poi nel finale avevano fatto 3 gol negli ultimi 10 minuti, perché difendeva altissimo, si faceva fregare da un triangolo molto semplice che mandava in porta a volte Benzema, a volte Ronaldo, a volte Kakà, fece molto bene quella partita anche Higuain, ecco, con il giocatore che si beffava della linea di fuorigioco altissima e arrivava da solo davanti al portiere e segnava. E questo, perché questo era possibile? Eppure Unai Emery era sponsorizzatissimo, perché in Spagna i giornali, se tu giochi propositivo, anche se perdi 6-0, va, sì, bene, sono contenti. Vieni lodato, mentre invece in Italia vieni considerato un asino, soprattutto se prendi 6 gol uguali. E dice, e dopo 2 cambia, trova qualche accorgimento per Sassuolo evitare Inter 0-7. Tutti questi gol. Però poi, evidentemente, lui è cambiato, perché invece adesso in queste 3 edizioni di Europa League abbiamo visto un tecnico che dal punto di vista tattico si è mangiato a colazione tutti quanti. Sì, ora, a partire da Klopp, che in Inghilterra sì, hanno rinominato Klopp, flop per la quinta finale consecutiva sì, persa. C'è la grande attenuante del fatto che doveva essere almeno 2-0 la fine. Ma adesso ne parliamo. È un furto, adesso dai. A proposito di quello che diceva Pier, del fatto che effettivamente abbia deluso nel girone di Champions, lui ogni anno perde l'uomo guida praticamente, perché 2 anni fa dopo la Coppa ha perso Rakitic, l'anno scorso ha perso Bacca, sì, quest'anno sì, perderà Banega, ecco, e lui ogni anno è un po' come, vi ricordate l'Udinese degli anni di Guidolin, cioè che arriva in Champions, al preliminare di Champions, vende tutti quelli buoni, poi poi ricomincia. Come Guidolin è un allenatore eccellente, alla fine riusciva comunque a riportare a quei risultati. Difatti lui spende, anche Emery, spende l'autunno a ricreare la squadra e poi in primavera quella squadra vola. Mm. Allora, scrive qualche amico, non vorrei più sentire che solo in Italia si fa tattica. Emery ha lavorato molto sugli schemi, Simeone anche. Poi c'è chi dice, va bene, squadra meravigliosa, ma l'arbitro era spagnolo. Era svedese. Eriksson. Sì, ma c'è sempre la S. No, l'arbitraggio, poi sai, il calcio è bello per questo, ma soprattutto nella partita secca, insomma, gli episodi contano tantissimo. No, decisivo, c'erano 2 rigori per il Liverpool nel primo tempo. Però il discorso che faceva Paolo, insomma, è giusto. Io l'altro giorno ho incontrato a Senigallia Di Francesco, lo 0-7 di Sassuolo-Inter di quell'anno lì mi rimane nella testa, perché è chiaro che era un'assurdità quella partita e che il Sassuolo ha giocato malissimo, però è anche vero che lui è stato forse il primo, un pochino anche quest'anno Giampaolo, il primo a far giocare una provinciale come se non fosse una provinciale, ed è chiaro che la strada per la gloria passa per dei rischi, passa per delle brutte figure, se tu è quasi fisiologico che tu debba fare delle brutte figure nella vita se vuoi crescere, anche proprio veramente filosoficamente parlando, no? E quindi il discorso che faceva prima Paolo, in Spagna c'hanno molto di più questo tipo di mentalità. Sì, poi però per vincere le brutte figure, una volta fatte, le hai imparate, devi cambiare. Certo. E ieri, in questi mesi, in questi anni, Emery ha dimostrato di aver cambiato. Prima di salutare Paolo Condò, il retroscena, Eriksson era ieri alla finale di Europa League, semplicemente perché, cari amici juventini, caro Marotta che si era molto lamentato, la UEFA e chi giudica gli arbitri aveva giudicato ottimo il suo arbitraggio in Bayern di Monaco Juventus, in cui c'erano tanti episodi, tutti secondo la UEFA giusti, tranne il fuorigioco di Morata, ma in quel caso la colpa era stata addebitata all'assistente, al guardaline, che guarda caso ha aiutato Eriksson ieri a sbagliare almeno su uno dei 2 episodi di mano, perché era perfettamente in linea, ma ha preso, o meglio aveva sbagliato anche il fuorigioco del gol del 3-1 di Koke, poi lì Eriksson è stato bravo a vedere il doppio tocco, però insomma questo è, giudicate voi se vi va bene o no, però questo è, lui ha arbitrato la finale di Europa League perché il quarto tra Bayern e Juve secondo la UEFA era stato arbitrato bene. Ciao Paolo. Ciao Paolo Condò. 800 24 00 24, la borsa, poi torniamo tra poco, seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, 349 238 6666, SMS e WhatsApp. Daniele da Milano. Daniele. Sì, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Vai. Niente, a proposito della finale di ieri sera, no? Cioè io mi chiedo, no? Prima della prima azione ho visto lì il pelato che rideva. Chi è il pelato? È Collina. Che rideva in tribuna, no? Cioè, quest'anno io ho visto più errori nelle coppe che in tutto il campionato italiano. Abbiamo il designatore degli arbitri e praticamente la metà delle squadre, se non tutte, quest'anno sono uscite per errore arbitrario a sfavore. Sì, però posso dire una cosa, Daniele, te lo dico per conoscenza diretta, e ogni tanto noi, ma anche noi addetti ai lavori, non solo noi come osservatori esterni, tifosi, abbiamo la percezione di un errore che poi invece tecnicamente errore non è. Vi faccio un esempio, tornando a Bayern Monaco Juventus ad esempio, in tanti hanno scritto, abbiamo scritto che il gol del 4-2 del Bayern è viziato da un fallo su Pogba. Ebbene, per chi invece valuta gli arbitri, quella è una decisione, in quel caso di Eriksson, giusta, perché se il metro di tutta la partita è il metro che quei contrasti lì tu non li fischi, e in quel caso era così, E poi dopo sì, non puoi spacchettare generale, la partita in generale in singoli episodi. C'è spesso una distanza fra la percezione e anche i commenti di molti addetti ai lavori e quello che poi c'è scritto nel referto UEFA, che è l'unica cosa che conta. E credo che il tuo retroscena sia particolarmente interessante, nel senso che poi alla fine l'arbitraggio che ha fatto infuriare la Juve e che è stato criticato da mezza Europa, in realtà probabilmente all'UEFA è piaciuto, ma non è che sia piaciuto perché chiaramente non è perché che è piaciuto perché, perché ha favorito il Bayern, è piaciuto perché evidentemente dal punto di vista tecnico viene considerato utile. Mi hanno raccontato che fatte vedere le immagini del famoso presunto fallo di mano di Villarreal Napoli, quello sul, nella partita d'andata che il Napoli chiede calcio di rigore, fatto vedere ai CT europei, la quasi totalità ha detto che lì il rigore non si dà mai, ad esempio. Eppure nei tifosi del Napoli c'è la percezione che quella sia una partita condizionata da quell'errore arbitrale. Marco dalla provincia di Venezia, detto questo, poi quest'anno non è, abbiamo visto anche degli arbitraggi brutti. Assolutamente. Marco dalla provincia di Venezia, Marco. Sì, buongiorno, sono Marco da Marghera, provincia di Venezia, è precisamente la località industriale della terra veneziana che ha in Italia Ivano Bordon, portiere dell'Inter di Bergamo. L'Inter della nazionale. Sì, è il campione del mondo 86, sì. 82, vice di Dino Zoff. Ecco, io mi riferisco sì anch'io a riparlare del Siviglia e di Panega, sì. Il mio tifoso interista. Ecco, innanzitutto complimenti alla squadra di Emery che il terzo anno consecutivo vince l'Europa League, tra l'altro passando per i gironi della Champions, arrivando terza o addirittura ai preliminari, perdendoli appunto, poi si retrocede appunto in Europa League. Ecco, Banega ha vinto appunto 3 titoli consecutivi in Europa League e quindi è stato un grande colpo a parametro zero da parte dell'Inter. Se io fossi, che ne so, Mancini, Zanetti o il team manager Stankovic, io lo motiverei e gli direi: tentiamo di vincere l'Europa League quest'anno, perché se la vinciamo andiamo direttamente in Champions. E ci giochiamo anche la Supercoppa europea che ci pensi da solo Banega a motivarsi, non ha bisogno. Il problema è se tutti gli altri, lui ce l'ha in testa che l'Europa League si fa seriamente. Il problema sono gli altri. Lo ha dimostrato in questi anni. Vediamo se riesce a evangelizzare l'Inter e il calcio italiano da questo punto di vista. Sicuramente il tema è caldo, insomma, l'Europa League è una bella competizione, è utile. Noi siamo quello che dice Paolo. È vero, cioè è chiaro che oggi è più facile per un'italiana pensare di poter vincere l'Europa League rispetto alla Champions, su questo non c'è dubbio. È altrettanto vero che è infinitamente più arrapante la Champions, insomma, è come se tu non puoi più uscire con Claudia Schiffer. Secondo me per club che non vincono una coppa europea dal secolo scorso, dico il Napoli, è arrapante tutto, anche l'Europa. Ma evidentemente no, perché se guardiamo il comportamento degli ultimi anni, tante volte abbiamo visto far fare turnover in Europa League perché magari poi c'era l'Empoli o il Chievo in campionato la settimana dopo. Vedremo l'anno prossimo se ci arriva il Sassuolo. Saluto Giorgio Perinetti, direttore, buongiorno. Buongiorno. Parliamo un po' di Ventura, l'avventura che sta per cominciare. Onoratissimo innanzitutto di essere preso in considerazione dalla Federazione Italiana e quello che per me in questo momento è importante, l'ho dichiarato anche prima, è focalizzarmi solo e esclusivamente sull'europeo con la mia Albania. Non lo so, se è stato scelto è perché è stato valutato all'altezza della situazione e auguro eventualmente a Ventura di avere un grosso successo. Non mi sento di dire niente, anche perché, ripeto, è una decisione che comunque spetta alla federazione. Ho letto che ci sono una lista di allenatori capabili alla successione, quindi però non mi sento di esprimere nessun giudizio, proprio perché non vorrei mancare di rispetto nei confronti di nessun altro. Magari qualcuno possa pensare che stia tirando la volata a qualcuno, quindi non voglio proprio entrare nel discorso. Se il senatore italiano mi chiedi se sarebbe felice di allenare, forse magari quelli di 20 anni no, quelli di 30 anni no, ma però chi non sarebbe orgoglioso non solo per la nazionale, ma perché credo che sia un punto d'arrivo per qualsiasi allenatore italiano, quindi è abbastanza evidente che ci sarebbe un motivo d'orgoglio. Questo è un Ventura di qualche tempo fa, giorno fa. Ovviamente l'altro De Biasi, Conte invece. Ma di ieri. Ti piace? Lo chiediamo al professor Perinetti. A me piace, anche se c'è ovviamente qualcosa su cui discutere. Perinetti, piace o no sì. Ventura CT? Perinetti non è una persona a caso, no. Ha accompagnato la carriera di Ventura. Ma diciamo che si riproporrebbe, a quanto pare, quello che abbiamo fatto noi a Bari quando Conte lasciò, prendemmo Ventura e fece un campionato record per il Bari con 50 punti, record del Bari in Serie A. Quindi Conte sostituito da Ventura a Bari all'epoca, Conte lascerebbe il testimone a Ventura anche in questa occasione. Io, visto il panorama generale delle disponibilità date da alcuni soggetti, da altri no, per la nazionale, credo Ventura abbia tutte le carte in regola per due motivi. Intanto è uno che ha avuto in carriera meno di quanto meritasse, secondo è un istruttore di calcio, terzo, cosa più importante, è molto abile nel giudicare la potenzialità dei giocatori. E siccome la nazionale italiana ha sempre meno scelte da fare, il nostro campionato propone sempre meno giocatori italiani, la capacità che ha Ventura di individuare quelli che hanno potenzialità e possono arrivare presto a aiutare la nazionale, quindi credo che Ventura abbia questa capacità. In più, il gioco di Ventura ha analogie abbastanza profonde, specie nell'origine del gioco da dietro, in determinati schemi, molto simili a quelli di Conte, quindi penso che chi giocherà in nazionale passando a Conte a Ventura sarà molto agevolata, non troverà differenze sostanziali. Non ci sarà da resettare tutto, anche perché poi i tempi sono pochi. Dopo la fine dell'Europeo a settembre l'Italia già si gioca molto del cammino verso il Mondiale del 2018. In redazione con Giorgio De Luca siamo andati a recuperare una dichiarazione di Perinetti di un anno fa, dove diceva: non capisco perché i grandi club abbiano snobbato sempre Ventura. Io faccio la parte del maligno, perché questa nazionale, quella che verrà, è tutto tranne che una grande squadra e quindi viene consegnata a Ventura. Faccio il maligno, Perinetti? No, io penso che Ventura potrebbe allenare benissimo a squadre importanti. È stato vicino alla Juve quando la Juve poi scelse Ancelotti. Cioè io non sottovaluterei assolutamente la figura di Ventura e la sua capacità di confrontarsi con giocatori anche importanti, perché ha conoscenze e sa trasmetterle, quindi per me Ventura è uno dei migliori tecnici italiani. Non c'è dubbio. E credo che possa fare sicuramente in questa nuova realtà della nazionale, concepita saggiamente da Tavecchio della federazione, con un Lippi che creerà la cantera azzurra. E quindi poi il sostituto di Ventura uscirà da questo lavoro. Credo che sia stato fatto una cosa intelligente. Ma io ho un solo dubbio. Io stimo tantissimo Ventura ed è bravissimo, credo che sia indiscutibile, classico allenatore ad alta percentuale di successo, e l'unico dubbio che ho è che mi sembra uno molto allenatore, cioè uno che ha una filosofia di gioco, e questo è un complimento che gli faccio, molto particolare, molto, cioè che chiaramente però ha bisogno di una pratica quotidiana, cioè tutto mi sembra meno che un selezionatore, dove selezionatore spesso magari è uno che ha un calcio semplice, no? Assembla gli uomini. Ventura mi sembra, da questo punto di vista, qualcosa in più, cioè mi sembra un maestro di calcio, uno che quando ha avuto la possibilità di allenare le squadre gli ha dato una filosofia ben definita. Può essere un problema questo, il fatto del poco tempo che avrà inevitabilmente a disposizione? Questo sarà un problema per tutti, per chiunque avesse preso la nazionale italiana, perché i club non danno spazio e quindi questo è un problema, è stato un problema per Conte in questi anni, sarà un problema per qualunque allenatore nei prossimi anni allenerà il club azzurro. È chiaro che poi può darsi che finalmente si capirà che comunque la nazionale è importante, che la gente ama la nazionale, che il calcio è una passione popolare, la nazionale è una grande passione popolare, e che bisogna cercare anche degli spazi per la nazionale, altrimenti rischiamo sempre dei flop. E quando si capirà che bisogna lavorare molto per i giovani, che bisogna lavorare dal basso, che bisogna dare spazio alla nazionale giovanile, che bisogna dare spazio alla nazionale azzurra, probabilmente l'allenatore di quella nazionale potrà fare l'allenatore. Sarà un selezionatore fortunato. Ad oggi non è così. Oggi vedo naturalmente in Ventura comunque due vantaggi. Primo, di poter continuare credendo nella filosofia di gioco di Conte e quindi non ci saranno sbalzi in questo senso. Cioè, ovviamente lui porterà i suoi correttivi, questo è chiaro. Ma la filosofia è la stessa. La seconda è che, naturalmente, essendo bravissimo nell'intuire le potenzialità dei giovani, ecco, forse potrà vedere prima di altri i giocatori che possono arrivare in nazionale e dare la mano. Allora, noi abbiamo il traffico, chiedo un minuto a Giorgio Perinetti, perché poi voglio chiudere con lui il discorso. L'ha detto prima lui, la collaborazione tra i club, la nazionale. Perinetti è anche stato un uomo importante per Conte nella sua carriera, per la Juventus. Mi piacerebbe sapere come ha visto Conte ieri, quando diceva boh, con la Juve nessun problema, nessuno ha sbagliato, non mi hanno dato Bonucci, amici come prima, non lo so, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Io penso che nessuno abbia sbagliato. Io ho convocato il giocatore in quanto squalificato, perché comunque volevo averlo in ritiro. La Juventus era nelle possibilità di non mandarlo e non l'ha mandato, appunto. Ne abbiamo preso atto, amici come prima. Ecco. Questo Conte ieri, Giorgio Perinetti, come l'hai visto Conte? Lo conosci bene, secondo me era altro che tutto come prima, amici senza amici, problemi. Amici come prima. Ma io penso che l'ipocrisia non faccia parte di chi dà un'opinione come me. Mi chiamate per un'opinione, io do un'opinione. Sì. È chiaro che Conte soffre di queste cose, ma ha sofferto per la mancanza di stage, ho sofferto perché quando c'è stata la riunione con tutti gli allenatori, qualche allenatore collega non c'era. Questo lo ritengo assolutamente normale, perché un allenatore come lui, allenatore, sottolineo, che vorrebbe fare il meglio e per far bene con la squadra, che si rende conto che ha poco tempo per assemblare un gruppo che deve andare agli europei, lo deve rivitalizzare dalle fatiche il campionato, ha perso Verratti e Marchisio, sono una mazzata tremenda per qualsiasi allenatore. È normale che poi vede che è un Bonucci che potrebbe comunque allenarsi lui. Bonucci è fondamentale per stare vicino ai ragazzi, insegnare i suoi schemi dalla parte che partono lì. Non ci resta bene. E quindi c'era veramente. Ma ha fatto bene la Juve o no? Ha fatto bene la Juve da dirigente? Lo dice lui, ha esercitato un diritto e la Juve ha pienamente diritto di fare quello che ha fatto. Però ripeto, non mi fermare solo a questo episodio, c'è una scarsa considerazione del lavoro che può fare chiunque in nazionale rispetto ai club. È chiaro che i club sono esasperati da impegni, sono oberati da tante partite, la direzione cerca di risparmiare i giocatori almeno con la nazionale. Però sì, poi c'è sotto anche altro, probabilmente in questo caso. E poi c'è tutto il pregresso, perché è inutile che si fa finta di non pensare. Però ripeto, è un peccato. Comunque, ripeto, se parliamo in chiave nazionale, è ovvio. Il pregresso c'è, però che il giocatore serva a tutte e due, non c'è dubbio. Poi probabilmente in questo momento servisse più alla nazionale, perché la nazionale chiaramente ha un percorso che sta cominciando, la Juve all'ultima la partita della stagione, dove sicuramente Bonucci non ha sbagliato nessuno, è però meglio di un manichino, no, in allenamento è meglio avere Bonucci che la nazionale sia. No, ma Bonucci è fondamentale, è il miglior giocatore nostro dietro, quello che è fondamentale, perché non solo è il difensore più forte che abbiamo, ma anche il regista del gioco, perché è l'unico che ha più spazio per impostare l'azione. Per quello lo voleva Conte anche ad allenare, e quindi può allenare gente, soprattutto i giovani che stanno vicino a lui, che potevano imparare da questi giorni. Però è andata così. Grazie direttore, buone cose, grazie a voi. Ciao. Grazie Perinetti. Ciao. Dai, che abbiamo due minuti. Manuel da Novara. Manuel, sì, eccoci. Ciao, grazie per la convocazione. Vai. Vorrei prendere spunto dalla vittoria del Siviglia, con sì, tanto di complimenti, per porvi una riflessione sulla struttura di questa competizione e sulla qualità che viene offerta. Cioè il Siviglia va a vincere una coppa, la Coppa UEFA, l'anno prossimo farà la Champions League, essendo stata eliminata dalla Champions League stessa. Faccio un esempio, nel girone del Siviglia, il Manchester City, che vinse quel girone davanti alla Juve, se quest'anno non si fosse piazzato in campionato non farebbe la Champions League, a differenza del Siviglia che invece la va a fare. E chiudo dicendo, forse non sarebbe il caso di riflettere anche sulla qualità di questa Europa League, che nelle prime fasi propone delle partite questo di bassissima qualità. Sì. Questo è vero, però la qualificazione alla Champions è stata data proprio come incentivo per rendere l'Europa League più interessante. Cioè, in realtà è una diminuzione per l'Europa League, nel senso che è abbastanza frustrante per l'Europa League dire che per riuscire a renderla interessante devi dare un posto in Champions League. Quindi, diciamo, è una dimostrazione implicita dell'inferiorità rispetto all'altra competizione. Dall'altra, però, secondo me è uno strumento utile. A me non indigna l'idea che il Siviglia si qualifichi per la Champions League, e non c'è dubbio che avrei voluto fare la stagione del Siviglia più che quella del City, anche se poi il City in realtà arriva in semifinale. Però, francamente, alzare un trofeo è bello. No, ma tra l'altro non indigna nemmeno che lo vinca, credo sia la terza volta qualcuno che è passato dalla Champions, perché poi c'è chi ha fatto polemica anche in stagione, Sarri, che ha detto questa è una competizione falsata, però abbiamo tempo di parlarne ancora. Adesso c'è il GR 800 24 00 24, abbiamo anche il Giro, la MotoGP, insomma restiamo qui fino alle 15:30. Bene, molto bene, il Trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Cuore e Denari presenta... Un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10:30 su Radio 24. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Fabio da Perugia, Fabio. Eccomi qua, buonasera. Eccoci. A voi. Prego. Guarda, due cose al volo sull'Europa League. La prima, vi voglio dire, ecco, da tifoso bianconero, in proporzione la possibilità di non essere andati in finale qualche anno fa, in proporzione rispetto a, diciamo, alle stagioni fantastiche che abbiamo vissuto, mi ha lasciato più insoddisfatto che la finale persa l'anno scorso, ripeto, in proporzione, cioè certo. Perdere la finale dei Champions col Barcellona ci può stare, visto anche... No, la rosa. Invece non riuscire a concludere quella stagione con la vittoria in Europa League, per assurdo, era molto più alla nostra portata. Sono d'accordo. Io credo questo. D'accordissimo, questo. D'accordissimo. Tra l'altro con la finale in casa. Sì, quella finale in casa è stato un delitto concentrarsi sui 102 punti, no Fabio? Sì, esatto. Pensando alla giornata prima, mi pare a Sassuolo, no? Con tutti i titolari, un campo pesantissimo, ma poi ripeto, godo come il riccio per tutto il resto, per carità, però ecco, c'ho il ricordo tra virgolette veramente una delusione, perché alza la coppa qualsiasi, perché noi sappiamo che vincere aiuta a vincere, eccetera, eccetera. Assolutamente. Poi sul discorso di Sarri volevo fare una risata. Sinceramente, di tutte le tra virgolette scuse di quest'anno, quella dell'Europa League falsata l'avevo persa, e vi ringrazio perché la metto nella lista delle scuse di Sarri dopo il pallone. Non è l'unico Sarri a sostenere tra gli addetti ai lavori che una formula che prevede l'ingresso a metà competizione del grosso, poi delle favorite, perché insomma sono squadre che scendono da una competizione superiore, non sia il massimo della sportività. Io credo che però in questo senso sia un arricchimento per l'Europa League. Assolutamente, anche perché se non ci fossero quelle otto, l'Europa League sarebbe inguardabile, diciamo la verità. E poi comunque Napoli poteva vincerla l'anno scorso, poteva vincerla quest'anno, la Juventus doveva vincerla 3 anni fa. Il problema è che quando il Napoli è sceso dall'Europa League, dalla Champions League in Europa League, dopo i 12 punti, ricorderete, bellissimi in quel girone con 4 vittorie e con tanta sfortuna, poi si andò a imbattere sul Porto, fu anche sfortunata, però... Comunque c'è sempre la sensazione che l'Europa League venga percepita a livello forse anche ambientale, anche a livello proprio di pubblico, di tifo, di come una diminuzione, e quindi non c'è niente da fare, non si riesce a creare quel livello di eccitazione che ci dovrebbe essere, perché lo merita. Insomma, quindi ci giriamo attorno, ma insomma, poi non posso dire che sarebbe bastato. Per carità, il Napoli quest'anno è stato sfigato, che ha incontrato il Villarreal, che poi è andato avanti fino alle semifinali, poteva avere un sorteggio più facile, però in assoluto io continuo a pensare che il Napoli avesse la forza per poter arrivare fino in fondo. Marco da Bologna, Marco. Ah, salve, buongiorno. Salve. Due domande velocissime. Sì. Una, perché in tutto questo tempo non si è mai parlato di Fabio Capello, cioè è sempre stato, non è mai stato troppo nominato come guida alla nazionale. È stato fin troppo nominato, però Marco. No, direi nei dibattiti mai. Però è stato cercato. A me risulta che sono state fatte tantissime pressioni su Fabio Capello da parte della federazione, cioè, di Tavecchio. Sì, ho letto anche un suo SMS che comunque va in qualche modo anche scritto proprio per dare una posizione ufficiale, che non era interessato, e credo che abbia dimostrato coi fatti di non essere interessato. Ho la sensazione che se avesse voluto allenare la nazionale l'avrebbe allenata. C'è stata la sensazione a un certo punto che tirasse un po', non dico sul prezzo, non dico sull'ingaggio, ma l'idea comunque poteva dare questa sensazione. Posso poi invece dirti, la sua posizione sbaglio, è stata quella, ha detto coerente. No, all'inizio ci sono state le pressioni reiterate, non gli interessava, giusto o sbagliato che sia, non gli interessava, questa è la mia idea. Parliamo un po' di MotoGP, dai, MotoGP. Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ciao, buon pomeriggio. Ciao a voi, buon pomeriggio, qui al Mugello sta diluviando. Questo. Inizia bene il weekend del Gran Premio d'Italia, weekend che è iniziato col botto, al di là del diluvio, perché questa mattina c'è stato l'annuncio ufficiale di Vignales l'anno prossimo in Yamaha con Valentino Rossi, quindi diciamo le ultime tessere del mosaico si stanno andando a posto, Ciabatti. Sì, in realtà sì, all'inizio di questa settimana abbiamo annunciato noi il rinnovo di Andrea Dovizioso e questa mattina Suzuki ha anche annunciato di aver preso Andrea Iannone come primo pilota per il 2017-18, quindi si stanno mettendo a posto alcune tessere di questo puzzle importanti. Direi che in realtà le più importanti si sono sistemate proprio in questi giorni. Sì, direi che il quadro è chiaro. Tra l'altro avremo tre italiani in tre top team, tra Rossi, Dovizioso, Iannone. Avremo i tre che corrono per il mondiale in tre team diversi. È vero che abbiamo, prendete il paradosso, che abbiamo quasi tutta la stagione ancora da vivere. 2016, ma siamo già proiettati. E già siamo proiettati a un 2017 che è perfetto da un certo punto di vista della competizione. Ah sì, sicuramente direi che il campionato del prossimo anno avrà dei motivi di interesse in più sicuramente rispetto a quest'anno. Ovviamente parlando in casa Ducati ci sarà Lorenzo sulla nostra moto, ma anche Vignales come compagno di squadra di Valentino, Andrea Iannone alla Suzuki, entrerà la KTM, quindi direi che si prospetta un campionato 2017 veramente interessantissimo. Però ovviamente siamo, come dicevate voi all'inizio, quasi nel campionato, siamo quasi a un terzo del campionato 2016, ovviamente siamo concentrati al massimo, per di più il Mugello, la gara di casa per la Ducati, quindi abbiamo una motivazione in più per cercare di far molto bene. Come vi siete lasciati con Iannone? Ho letto magari da qualche parte, forse anche un po' di rimpianto per non essere riusciti a spremere tutto dal suo talento, o anche per le modalità dell'annuncio, cioè chi ha detto troppo presto alla conferma di Dovizioso. Ma oddio, quest'anno è incominciato tutto molto presto e quindi per forza di cose bisognava a un certo punto prendere delle decisioni anche per il rispetto del pilota che non sarebbe rimasto con noi, perché non potevamo portare troppo avanti le trattative e rischiare di fargli perdere un'opportunità importante con un'altra casa, no? Quindi bisogna tenere presente anche questo e quindi non credo che si potesse fare diversamente, e tutto è iniziato estremamente presto già in Qatar con l'annuncio del rinnovo di Valentino Rossi e di conseguenza poi si sono mosse un po' tutte le altre cose. E con Iannone è un pilota a cui vogliamo e vorremmo sempre un gran bene, purtroppo per tutta una serie di motivi che è troppo lungo da spiegare non c'erano le condizioni, non siamo riusciti a trovare le condizioni per poter continuare con lui, ed è sempre antipatica una scelta tra due piloti che corrono con noi dal 2013 entrambi. C'è un amico che scrive che è stato Lorenzo a scegliersi Dovizioso come scudiero. Questo è assolutamente non vero, Lorenzo non ha posto nessuna condizione, si sente sufficientemente forte per poter essere capace di condividere il box e l'ha fatto per tanti anni con Valentino Rossi, penso che non lo spaventi sicuramente la convivenza né con Dovizioso né con Iannone, quindi questo non è vero. E è vero che è stata una scelta molto difficile, infatti ci abbiamo messo un po' di tempo e chiunque dei due avesse dovuto lasciare la Ducati alla fine di questa stagione sarebbe stato comunque un pilota a cui insomma che ci avrebbe lasciato un rimpianto, quindi così è andata, è inutile adesso parlare troppo delle ragioni, ma Iannone è un pilota velocissimo e speriamo che quest'anno, così come Dovizioso, ci riesca a dare delle belle soddisfazioni nelle prossime gare. Cosa dobbiamo aspettarci dal Mugello? L'anno scorso proprio Iannone e Dovizioso sono partiti in prima fila e Iannone aveva fatto la pole position e ha finito secondo a 5 secondi da Lorenzo. Dovi purtroppo ha avuto un problema alla corona e quindi si è della sua moto e si è dovuto fermare. Io per noi è una gara particolarmente importante, abbiamo tantissimi tifosi, abbiamo la tribuna Ducati al Correntaio con quasi 2500 appassionati e quindi cercheremo di fare ovviamente un gran risultato. Poi qual è il gran risultato? Io vorrei far meglio dell'anno scorso, l'anno scorso siamo arrivati secondi, quindi fate un po' voi. E invece noi vogliamo capire tutti, poi ti salutiamo, se questo mondiale è davvero aperto o no, al di là di quello che dice la classifica. Io penso che sia un mondiale molto aperto, quest'anno le gomme Michelin hanno creato qualche difficoltà a tutti i piloti, ai nostri purtroppo in particolare, però direi che dei top rider tutti sono caduti una volta e quindi è un mondiale molto incerto, credo che sarà combattuto fino alla fine. Grazie Ciabatti. Grazie a voi. Grazie Paolo Ciabatti, iniziato il weekend del Mugello che seguiremo anche domani e poi domenica dopo la gara, tutti convocati il weekend dalle 17 alle 19. Mi fate sentire Totti? Totti. Ha detto così stamattina? Ha detto manca poco, tra due giorni. Reggi Chicco. Rinnovato? No, no, ancora niente. Ancora niente? Ma ci siamo. Aspettiamo. Beh, almeno hanno fatto chiarezza che non è un problema economico, no? Perché... quella è la cosa più importante. Vero. No. Non è mai stato e mai lo sarà. Non ti convince il ruolo che ti hanno proposto? Tutto. Ho fatto solo una piccola richiesta, basta. Però la valutiamo insieme. Mo ho detto troppo, però. Questo Totti ieri, tu hai capito quando firma? Firma. L'abbiamo capito giorno, anche perché. Ma... qualche giorno. Credo che sia abbastanza chiaro che il nodo è sul futuro, quindi sugli anni del contratto da dirigente. O magari credo più sul ruolo. Sì, o magari sul ma, ruolo. Ma è una piccola richiesta andare ad una società, non aver ancora dimostrato nulla come dirigente, perché giustamente come tutti i calciatori che smettono è un'incognita, e dire io voglio fare il direttore tecnico, che è una figura chiave in un club. Sì, sì, sicuramente, anche perché... cioè non ha torto Pallotta a pensarci su. Il Totti calciatore lo conosciamo benissimo ed è stato e è ancora in qualche modo strepitoso. Il Totti dirigente non lo sa nemmeno Totti se sarà in grado di esserlo nella maniera più giusta. Quello che è certo è che Totti non può, dal punto, cioè dove c'è sicuramente la certezza che la Roma non può privarsi di Totti, non può far finire male questa storia d'amore, non ha nessun senso né dal punto di vista romantico né dal punto di vista economico, perché Totti è un valore economico della Roma, con le magliette, con la sua presenza, col suo ruolo, e lo sarà anche in futuro evidentemente da dirigente, da ambasciatore. Poi sul fatto che ci possa essere dei dubbi sulle sue qualità manageriali, questo è ovvio, questo è indiscutibile proprio al 100%. Sì, e credo giustamente Pallotta ci voglia pensare un pochino. Sono un po' di messaggi, noi del Sassuolo se facciamo l'Europa League ci proviamo, e come se ci proviamo? Tanto i tifosi del Sassuolo vanno in piazza con un maxi schermo sabato sera pronti per la festa. Vabbè, giusto. La scaramanzia non è di Sassuolo. No, però ti posso dire, a me è piaciuto molto, poi ti ripeto, l'altro giorno ho incontrato Di Francesco, mi è piaciuto molto la... diciamo come sono stati diretti sia Di Francesco, gli stessi, cioè è giusto, è bello, da appassionato dell'Europa League, in generale da appassionato del calcio, da persona che pensa che l'Europa League possa essere un viaggio molto stimolante, l'idea che ci sia qualcuno che va in piazza o che dice apertamente, come Di Francesco, che ti farà Juve perché vuole assolutamente questa Europa League, anche se si parte col preliminare, il Sassuolo non ha un grande ranking ma sarebbe comunque testa di serie, questo lo dico per la cronaca del preliminare, insomma, anche se sei un viaggio, l'idea che questi non se la tirino, non siano lì a dire no, poi ci tocca cominciare, che non siano a metà luglio di qualche anno fa, ecco, esatto. Tanto glielo potremo dire lunedì in diretta, perché Eusebio Di Francesco sarà, certo, sarà nostro ospite lunedì, ve lo diciamo, in diretta. Eusebio Di Francesco, ma ai tifosi della Juve diciamo per festeggiare la qualificazione del Sassuolo in Europa League, ai tifosi del Milan diciamo per consolare il Sassuolo dopo la beffa, certo, dalla finale di Coppa Italia. Intanto i cinesi si sono presi l'Aston Villa e Di Matteo potrebbe diventare il prossimo allenatore. Zaccheroni è durato 2 mesi a Pechino, oggi è arrivata la notizia dell'esonero. Federico da Bologna, Federico. Pronto, buongiorno. Eccoci. A tutti. Prego. Intervengo riguardo la MotoGP, premetto che io sono di Bologna, sono ducatista, quindi sì, da quando sono nato. Purtroppo stamattina ho letto una notizia molto brutta, che era già nell'aria, che al Mugello sia Marc Marquez che Jorge Lorenzo avranno una scorta personale che... Sì. Sarà per loro difficile uscire e mischiarsi con i tifosi, insomma. Ecco, credo che questa campagna un po' dell'odio sia stata anche molto avvallata da alcuni media italiani che vedono, insomma, in Valentino Rossi qualcosa di intoccabile. Beh, Federico, insomma, è anche successo qualcosa di anomalo l'anno scorso sul finale della stagione. Io ho capito, sì, che Valentino, guarda, Rossi non ti sta simpatico, Federico, per carità, ogni posizione è assolutamente legittima. Assolutamente. Però insomma, ad arrivare al livello di scorta mi sembra... No, a livello di scorta è chiaramente, sono d'accordo con te, è una sconfitta per tutti sicuramente, l'idea che ci debba essere credo una scorta. Siano precauzioni. Credo siano precauzioni e ovviamente l'invito è a rispettare la vita, l'incolumità di questi due che sono due grandi piloti, anche se sono spagnoli e non sono italiani, ma ci mancherebbe altro, ma proprio ci mancherebbe altro. Però che lo scorso anno ci sia stato un finale del mondiale inusuale che ha certamente esacerbato rivalità, questo credo sia normale, così come il comportamento che ha avuto Marquez nelle ultime due gare mi sembra sia stato molto diverso a seconda di quello che era il suo rivale, se era Rossi o se era Lorenzo. Questo credo faccia parte della logica delle cose e penso che sarebbe fare un torto all'intelligenza di Marquez pensare che non si aspettasse che dietro a quel tipo di atteggiamento poi ci potessero essere delle conseguenze ovviamente di sfottò, di rivalità, non sia mai di carattere fisico, ci mancherebbe altro. Però, tanto mi pare di ricordare che ci fosse anche la polizia l'anno scorso all'ultima gara per tenere divise anche le tifoserie, perché, ma anche in Spagna non è successo niente, ci mancherebbe altro, non deve succedere, ci mancherebbe altro, e massimo rispetto per questi piloti spagnoli, ma questo è fuori discussione. Però che lo scorso anno sia successo qualcosa di non normale mi pare ovvio, qualcosa, no? Cioè, di inusuale, qualcosa di calcistico. Facciamo una pausa al giro, dai. Era Augusto Stagi, ciao. Ciao, buona giornata. Dove ti trovi? Siamo a Bibione. Bibione, sotto la pioggia. Al mare. Ah, sotto la pioggia anche tu. Sotto la pioggia, sì, l'acqua c'è, ma non è solo quella del mare. Senti, tappa oggi tutta dritta. Oggi tutta dritta, è l'ultimo giorno di ricreazione, da domani inizia a tutti gli effetti il Giro d'Italia. Possiamo dire che fino adesso i corridori hanno un po' scherzato, no? Ma da domani non si scherza più, domani si comincia a salire, c'è una tappa molto molto dura con 4 Gran Premi della Montagna, da Palmanova a Cividale del Friuli, 4 Gran Premi della Montagna secchi, asciutti, aridi come la terra del Friuli, e dura la salita, durissima la discesa, c'è uno strappo a valle piuttosto impegnativo a 14 km dal traguardo, quindi c'è tutta la possibilità per fare la differenza in una tappa breve, perché comunque è meno di 160 km piena zeppa di montagne, di salita. Sì, anche perché si sono persi un po' tutti i punti di riferimento, in 2 giorni abbiamo perso prima Landa, poi Dumoulin, non abbiamo capito che cosa fa Valverde, se è lui il capitano, se corre per vincere, se corre altro. Abbiamo capito benissimo. Valverde è capitano, questo è chiaro. No, Amador è il guastatore, è l'uomo che mette pressione agli altri, è un modo di correre che ha sempre avuto la Movistar, in modo particolare un 2, che è uno che di corridori se ne intende, visto che ha avuto anche Miguel Indurain qualche anno fa. Amador, il costaricano, è un corridore arcigno, forte, che può veramente compaginare le carte, ma lavora solo e soltanto per mettere pressione alla stana di Nibali in modo particolare, perché Valverde è chiaramente ha battezzato lui, non gli interessa né di Chavez, di Maika, di Zakarin, lui ha capito e sa perfettamente, ma questo lo sapeva fin dall'inizio in Olanda, che è Nibali l'uomo da battere ed è la stana la squadra più attrezzata. Ma quindi è rimasta e una quindi... corsa 2, Valverde Nibali, e da lì non usciamo per 10 giorni. Io ti dico, avremo questo duello. Io ti dico, c'è il duello, ma attenzione al piccolo scalatore colombiano Esteban Chavez, 26 anni, un ragazzo di grandissimo talento che può veramente inserirsi in questa sfida e magari anche approfittarne, no? Tra i due litiganti, il terzo gode. Speriamo di no, speriamo che poi alla fine a Torino si goda noi italiani con Vincenzo, però non sottovalutiamo neanche questo piccolo scalatore della Orica, formazione australiana, che ha investito su questo giovane che è molto molto forte in salire, è uno scalatore puro, sì. È un bravinino, e poi è il terzo incomodo di un giro che è esploso, ripeto, perché mancano alcuni dei punti di riferimento. In 30 secondi mi dici Nibali come sta, visto che siamo alla vigilia insomma del momento della verità e dei 10 giorni che decidono il giro. Guarda, Nibali sta bene e come sua abitudine migliora dopo giorno, perché lui è l'uomo della terza settimana. È un pochino nervoso perché sente la pressione attorno a sé, questo è logico. È un po' nervoso anche perché Valverde gli fa girare abbastanza le scatole, detto così, da qualche giorno, tolto ieri, ma quasi tutti i giorni con quei 6 scattini gli ha rubato 4 secondi, 2 secondi, 3 secondi. È lui che è molto orgoglioso e sono tutti estremamente competitivi, sono delle macchine da guerra. Non è che l'ha preso molto bene. In ogni caso, da domani in poi si comincia a fare sul serio e non sarà più una questione di 4 o 5 secondi, ma cominceranno a volare i minuti. I minuti. E noi saremo qui a raccontarla, Pierre. Saremo qui a raccontarla, così come oggi nel corso dei GR racconteremo anche di come va a finire questa tappa che arriva a Bibione sotto l'acqua. Grazie Pier Augusto Staggi. Ciao. Grazie a te. Grazie Pier Augusto Staggi. Friuli. Poi comincia a salire nel fine settimana su per il Trentino e per le montagne. Ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, dopo il GR delle 14, con Pio Luigi Pardo, torna Carlo Genta, come invece vi risentite domenica dalle 17 alle 19 e avremo un ricchissimo post partita della finale di Coppa Italia. Io sono a Soriano nel Cimino. Tra Juve e Milan, a prendere la Castagna d'Oro. La Castagna d'Oro, piena di ospiti, ci collegheremo. E sentiremo tutti che cosa ne pensa. De Luca, oggi De Luca è un poco... Che c'hai De Luca? È un po' sulle tue... È così, è un po' depresso. Andiamo a prendere un bello caffè, eh? Sì. De Luca, ok. Arriviamo. Adesso vi lasciamo al Falco e il Gabbiano. Buon caffè a tutti. A dopo. Saluti.